Fumo 10 grammi e mi scordo chi sei te. Giubbotti nuovi, svuotato container. Scanno via le Jenner. Dietro ci abbiamo le Iene. Sogno catene, evito catene. Bravi ragazzi nei brutti quartieri, ma vestiti come nei quartieri per bene. Infatti poi quando passi in zone fra dicono minchia la qui. Quando passi in zone fra dicono minchia guardi. No. Siamo ancora in zona frate, sui come da sbarbi. Solo che gli sbatti ora sono un po' più grandi. Dici che sei come noi ma mi pare di no. Tuo padre i soldi ce li hai, un papà non ce l'ho. No. E non ci crediamo agli eroi, sì ma già da un bel po'. Qualcuno paga gli errori ancora per un po'. No. La tua crew, tutti scemi. La tua cush, tutti semi. E tu dimmi che problemi hai. I miei amici sullo zip suontato. Che problemi hai? No. Vai tranquillo, te lo riportiamo. Che problemi hai? No. Punti il dito, dici che c'ho i soldi. Che problemi hai? Ma poi non sai se c'ho i G nascosti dentro quelle Nike. Facciamo vite fra giriamo film. Anche soltanto girando in quartiere racconto quello che vedo, io non me la meno. La mia gente mi vuole bene. Tu vuoi apparire per ciò che non sei, solo per piacere a loro, ma non ci riesci coi miei. Stampa i curriculum e vai a cercarti un lavoro. Tu dimmi che problemi hai. E tu dimmi.